GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Giornata del ricordo, la cerimonia solenne alla foiba di Basovizza, la presenza del ministro della giustizia Nordio. Non solo un momento di commemorazione, ha detto il sindaco di piazza, ma anche un'opportunità per riflettere sul valore della convivenza pacifica e sul rispetto reciproco tra i popoli. Dagli errori del passato la spinta per un cammino comune. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende spunto dalla cerimonia inaugurale di Go 2025 nel suo intervento per il giorno del ricordo al Quirinale. Da Tito ha detto una spietata violenza contro gli italiani. Il velo integrale nei luoghi pubblici continua a far discutere la politica, un dibattito che riparte da Monfalcone, dove i rappresentanti della Lega hanno fatto il punto sui progetti e le proposte di legge presentate in regione e in Parlamento. A pochi giorni dell'anniversario della morte durante una stage in azienda dello studente Lorenzo Parelli, l'ANMIL regionale avvia oggi un ciclo di incontri nelle scuole con le testimonianze di chi ha subito un infortunio sul lavoro. 350 espositori e 4 padiglioni dedicati alle novità nel settore della ristorazione degli alberghi nella Biennale delle Tecnologie per l'Ospitalità Horeca Next, in corso fino a mercoledì in fiera a Pordenone. Ancora un cordiale buongiorno da Daniele Lettige e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Dalla cerimonia principale alla foiba di Basovizza fino al treno storico, Trieste celebra il giorno del ricordo. In entrambi gli eventi per il governo presente il ministro della giustizia Nordio. Foiba presidiata dopo lo sfregio di alcuni giorni fa di cui ha voluto far riferimento il presidente Fedriga. All'odio di quelle scritte negazioniste rispondiamo con l'orgoglio di chi non soltanto deve, ma vuole ricordare, ha detto. Picchetto d'onore e deposizione della corona d'alloro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, così il Governo ha onorato i martiri delle foibe al Monumento Nazionale a Basovizza, dove un tempo sorgeva il pozzo minerario diventato nel 1945 luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri militari e civili da parte dei partigiani comunisti di Tito. La cerimonia solenne nel giorno del ricordo avviene non a caso sotto gli occhi di centinaia di ragazzi, studenti arrivati a Trieste dalle scuole di buona parte d'Italia, loro le giovani generazioni che devono imparare a non commettere più gli errori del passato. Il tempo, ha detto il vescovo di Trieste Enrico Trevisi, talvolta non sa cicatrizzare le ferite. Basta infatti, ha detto, che qualche testa balorda imbratti questo luogo a riacutizzare il dolore, facendo evidente riferimento alle scritte offensive e oltraggiose comparse a 48 ore dalla cerimonia davanti all'ingresso del monumento e subito cancellate. Poi le parole di conciliazione dello stesso ministro Nordio, che ha detto la svastica, la faccia del martello, il braccio teso, il pugno chiuso, sono opposti estremismi che costituiscono il medesimo volto della stupidità e della brutalità. I nostri vicini in Slovenia, ha concluso, sono oggi uniti a noi nella pace e nella libertà di un'Europa affrancata da rivalità secolari. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha allestito anche quest'anno il treno del ricordo, che nelle giornate di oggi e domani sosterrà Trieste, per poi partire alla volta di Padova, Bologna, Roma, Napoli, Lecce e Sassari. All'interno del treno saranno rappresentati la resistenza passiva attraverso la riproduzione dei vagoni che trasportarono in Germania i militari italiani dopo l'8 settembre 1943 e le condizioni di viaggio degli esuli, l'abbandono della terra natia e la speranza della rinascita. Oggi le visite al pubblico si svolgeranno dalle 14 alle 18, domani dalle 9 alle 18. E al Quirinale è terminata proprio poco fa la celebrazione del giorno del ricordo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso omaggio alle vittime delle foibe e dell'esodo. Con noi in studio Andrea Vardanega. Nelle zone del confine orientale, dopo l'oppressione fascista responsabile di una politica duramente segregazionista nei confronti delle popolazioni slave e la barbara occupazione nazista, si instaurò la dittatura comunista di Tito, inaugurando una spietata stagione di violenza contro gli italiani residenti in quelle zone, di quella stagione contrassegnata da una lunga teoria di uccisioni, arresti, torture, saccheggi e sparizioni. Le foibe restano il simbolo più tetro, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una parte del suo discorso che si è concluso poco fa al Quirinale, dove è stato celebrato per il 20° anno il ricordo delle foibe, dell'esodo e della più complessa vicenda del confine orientale, così come recita la legge istitutiva votata nel 2004, come ha ricordato lo stesso Mattarella, a larga maggioranza. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente della Camera Mulè, che rappresentava il presidente Fontana. Per il Senato c'era il presidente del Senato e c'era il presidente della Corte Costituzionale. All'interno della cerimonia ci sono state le esecuzioni musicali dell'Orchestra d'Archi del Conservatorio Tartini ed sono stati letti alcuni passaggi del libro di Greta Sklaunic, le poi vi spiegate ai ragazzi. In particolare è stata letta una testimonianza che ricorda la strage di Vergarolla del 13 agosto del 47, quando morirono centinaia di italiani, un attentato che è stato più volte attribuito alla volontà di pulizia etnica, anche questo è un termine che è ricorso all'interno della cerimonia, nei confronti degli italiani di Istria e di Dalmazia. Adesso credo che possiamo sentire un altro passaggio dell'intervento di Mattarella. Il ricordo delle vittime deve essere preservato e onorato. Naturalmente, dopo tanti decenni e condizioni storiche e politiche profondamente mutate, perderebbe il suo valore, quello autentico, se fosse asservita alla ripresa di divisioni o di rancori. Apprezziamo gli sforzi fatti dagli storici dell'una e dell'altra parte per avvicinarsi a una memoria condivisa. Ma ove questo non fosse facilmente conseguibile, e talvolta non lo è, dobbiamo avere la capacità di compiere gesti di attenzione, di dialogo, di rispetto. Mattarella nel suo intervento ha anche ricordato l'inaugurazione della capitale europea della cultura, Nova Gorizia Gorizia, ribadendo che anche questo è un passaggio del percorso di condivisione sotto il segno dell'Europa nelle popolazioni del confine orientale per superare, senza dimenticare, ma in base alla memoria degli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale, nel segno dell'Europa, per costruire appunto un percorso di condivisione e di cultura comune. Per il governo ha parlato invece il ministro degli esteri Tajani, che ha ricordato che le vittime stimate delle foibe sono oltre 4.000 e che sono oltre 350.000 i profughi giuliano-dalmati esuli dalle loro terre e dalle terre dei loro padri. Tragedia dimenticata per un pregiudizio ideologico, ha detto Tajani. Per ribadire questi valori noi abbiamo il dovere di custodirli con coraggio e con fermezza in ogni luogo del mondo, dall'Ucraina al Medio Oriente, in cui questi valori, ha concluso Tajani, sono messi in discussione dalla crudeltà dei confini. Elisabetta. Grazie ad Andrea Vardaniga. E cerimonie per il giorno del ricordo si sono svolte anche a Pordenone e a Udine, quest'ultimi al Parco Martiri delle Foibe, con la deposizione di una corona d'alloro. Corone di fiori, una poesia di Biagio Marin, il raccoglimento con la preghiera dell'infoibato, lumini accesi, la luce del ricordo, anche quando la fiamma vacilla. Cerimonia al Parco Martiri delle Foibe di Udine, città che non dimentica i 100.000 profughi passati dal capoluogo friulano, dove fino al 1960 era attivo un grande campo di smistamento, con un pensiero rivolto alla foiba di Basovizza vandalizzata. Bruna Zuccolin, presidente dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia del Comitato di Udine. C'è stata un'affluenza incredibile di persone alla foiba di Basovizza dopo che è successo questo. E quindi è come se ci avessero fatto un favore allora alla fine. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine. Ci abbiamo messo tanti anni ad arrivare a questa giornata, ma voglio ricordare, il Parlamento l'ha deliberato unanime e questo è importante perché tra le vittime di questa pulizia etnica ci sono stati tutti quanti, non soltanto quelli che avevano colpe legate al fascismo. Incontriamo Marco Renzi, nipote di una delle vittime. Suo nonno dal Trentino si era trasferito in Istria per lavoro, ma quando percepisce che qualcosa sta cambiando, vuole portare in salvo la famiglia. E decide però di andare a salutare i suoi colleghi di lavoro, lavorava come telefonista nelle miniere di Arsia, e lì sparisce, non si hanno più sue notizie, qualcuno dice che sia stato infoibato, qualcuno dice che sia stato ucciso e poi sepolto lungo il percorso che da Pedena portava ad Arsia, e ecco, la mia famiglia non ha mai avuto una tomba su cui poter mettere un fiore, un lumino a ricordo insomma del nonno. Io l'unica cosa che abbiamo ricevuto come famiglia è questa, la medaglia al riconoscimento sostanzialmente in onore ai martiri delle foibe, tutto quello che ci resta diciamo un po' del nonno, ecco. Fu dichiarato criminale di guerra anche se non era militare, solamente per rubargli i possedimenti, conclude Marco. Io vorrei solo che venisse riconosciuta la memoria diciamo di una persona che è restituita diciamo l'onore a una persona che semplicemente era italiano, punto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Approda questa sera su Rai 1 La bambina con la valigia, il film di Gianluca Mazzella sulla vera storia di Egea Hafner, protagonista di una foto iconica dell'esodo, quella appunto di una bambina ritratta davanti alla sua casa che stava lasciando con la sua piccola valigia. Egea aveva allora 4 anni e fuggiva da Pola assieme alla sua famiglia. Ora di anni ne ha 84 e vive a Rovereto. Nel servizio di Floriana Gavazzi sentiremo anche la voce del regista Gianluca Mazzella. La storia è quella di Egea Hafner, che oggi ha 83 anni e vive a Rovereto. Dal suo libro La bambina con la valigia, scritto insieme a Gigliola Alvisi, è stato tratto il TV movie che racconta la sua infanzia a Pola durante la Seconda Guerra Mondiale sotto le bombe e la fine del conflitto, che però per gli istriani di lingua italiana rappresentò l'inizio di un nuovo dramma. I titini ce l'hanno con noi italiani. È un libro che parla soprattutto ai ragazzi e racconta un po' la vicenda che ha vissuto lei, facendone un po' il simbolo di una vicenda che hanno vissuto tantissime persone. Parliamo di centinaia di migliaia di persone che sono dovute andare via in quel modo dalla loro casa. Buonasera. I seguaci di Tito si presentano a casa Hafner e sequestrano Kurt, il papà di Egea. Mio marito non ha fatto niente. Sono al controllo, signora. A quest'ora? Il comando lavora sempre, c'è tanto da fare. Ma quando torni, papà? Il papà di Egea non tornerà più, finirà, come tanti italiani, nelle foibe e di lui non si saprà più nulla. Fuggita a Bolzano, Egea si costruisce una nuova vita, grazie anche all'affetto protettivo delle donne della sua famiglia. La bambina con la valigia, una produzione Clem Art in collaborazione con Rai Fiction, va in onda stasera in prima serata su Rai 1. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo coperto in tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste Pordenone 9,5 gradi, a Gorizia 9, a Udine 8,5, a Tolmezzo 8, a Forni di Sopra 6,5 gradi, a Sapada 3,5 gradi, a Piancavallo 3, a Tarvisio 2, sul Monte Lussari 5 decimi di grado, sul Monte Zoncolan 0 gradi, a Lignano 9,5, a Grado 9. Queste le previsioni per oggi pomeriggio. Cielo in prevalenza coperto su tutta la regione. In serata e fino a domani mattina possibili foschie o banchi di nebbia, specie sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. A pochi giorni dal terzo anniversario della morte dello studente Lorenzo Parelli, l'ANMIL, l'Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, inizia dal Liceo Nordio di Trieste un ciclo di incontri nelle scuole della regione, che da qui a maggio coinvolgerà 34 istituti. Nel 2024, secondo i dati dell'Associazione, in regione gli infortuni sul lavoro sono stati oltre 15.700, lo 0,5 in più dell'anno prima. A scuola di sicurezza con l'ANMIL del Friuli Venezia Giulia, l'Associazione Nazionale dei Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Il progetto parte dal Liceo Artistico Nordio di Trieste e si sposterà in altri 5 istituti superiori della regione. In ogni scuola gli studenti ascolteranno la testimonianza diretta di chi si è infortunato o ammalato sul lavoro, come Alberto Chiandotto, ex operaio meccanico che costruiva guarnizioni in amianto. Fino all'84. E poi nel 2005 mi sono trovato alla sorpresa della malattia che mi ha portato a 7 ore di intervento chirurgico, tolto il polmone, tutte le 3 parti, e il mio corpo sta degenerando continuamente. Contro soffitti pericolanti, pavimenti o rivestimenti con amianto, cavi elettrici liberi, con i visori di realtà aumentata, gli studenti si esercitano a capire dove si nascondono i rischi per la loro sicurezza anche a scuola. Veronica Azzurra De Giusti è responsabile dei progetti scuole di LEF. Abbiamo riprodotto una scuola dove ci sono laboratori, aule, l'atrio della scuola, palestre, i bagni, eccetera. E l'obiettivo principale è quello di andare nei diversi ambienti e segnalare possibili rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il presidente dell'ANMIL Friuli Venezia Giulia, Fernando Della Ricca. Riteniamo che all'interno delle scuole vi sia un'esigenza estrema di fare cultura della sicurezza. E dove si può fare cultura se non nelle scuole? Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. La capitale europea della cultura, Gorizia e Nova Gorizia, ha fatto riemergere tante piccole storie di confine. Una, molto curiosa, viene dal valico confinario di Rafut e ci parla di una fotografia che ha fatto storia. Settembre 1947, la lunga linea bianca che divideva l'Italia dalla Jugoslavia aveva ancora la vernice fresca quando al confine di Gorizia un cineoperatore del tempo finì un movimento di camera su questo cortile. Sono passati quasi 80 anni e quel cortile è ancora lì, accanto al valico pedonale di Rafut. Non c'è più la stalla, ma a raccontarci della vacca, immortalata anche da un fotografo dell'epoca, è Mauro Leban, figlio dell'allora proprietario. Era legata davanti alla stalla. Quando hanno tracciato il confine, hanno praticamente lasciato la stalla in Jugoslavia, la casa è rimasta in Italia. La vacca però era sempre nostra, dovevamo accudirla. E noi eravamo abituati, la nostra famiglia era abituata a lasciarla pascolare davanti alla stalla, fra la casa e la stalla. È capitato che in un certo momento si è posta con le zampe posteriori in Italia e quelle anteriori in Jugoslavia, e da lì la famosa foto. È una delle piccole storie che fanno la storia con la S maiuscola, quella di una città divisa a tavolino dal suo retroterra, separando famiglie dove si parlavano lingue diverse. Il padre di Leban è rimasto in Italia, lo zio in Slovenia. Lei che cos'è? Io sono goriziano, io sono fiero italiano come cittadino, perché sono nato in Italia. Ecco, di nazionalità sono sloveno e friulano, non posso neanche dire o l'uno o l'altro. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Pordenone, dove si è aperta la fiera dedicata ai servizi, ai prodotti e alle tecnologie del settore degli alberghi e della ristorazione. Un'opportunità per scoprire le nuove tendenze del mercato. 350 espositori e 4 padiglioni dedicati alle novità nel settore della ristorazione e degli alberghi nella Biennale delle Tecnologie e Forniture per l'Ospitalità Horeca Next, in corso fino a mercoledì in fiera a Pordenone. Federico Mariutti è vicepresidente FIPE Pordenone. Mercoledì alle ore 16 ci sarà il lancio e la presentazione ufficiale del progetto Contatù, un progetto fatto in sinergia con Diabete Italia, con Nutrition Table e FIPE Confcommercio di Pordenone, e per dare uno strumento ai diabetici affinché al ristorante possano vedere nei nostri piatti qual è l'indice glicemico tramite i carboidrati, per poter poi affrontare anche nel modo corretto la degustazione e l'esperienza nei nostri locali. Tra gli incontri anche il punto e le prospettive del marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, che dal 2020 a oggi conta oltre 400 aziende agroalimentari della regione e altrettanti servizi, 1200 prodotti e 1500 eventi. Pierpaolo Rovere, direttore Fondazione Agri Food. Le imprese ci sono, i prodotti ci sono, le prospettive sono buone, perché in quest'anno noi andremo a renderlo una certificazione sulla sostenibilità per le imprese e al contempo fornirà alla regione uno strumento per poter allargare ad altri settori che, come sapete, stanno richiedendo di poterlo utilizzare. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Più di 12.000 capi di abbigliamento sequestrati all'interno del porto di Trieste dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza sono stati devoluti in beneficenza alla Fondazione Diocesana Caritas di Trieste. Si tratta di merce rinvenuta in un container proveniente dal porto turco di Pendik, intercettato nel porto di Trieste, che riportava perfettamente riprodotti i loghi di famosi marchi della moda internazionale. L'insolita varietà del carico e il coinvolgimento di società estere non direttamente collegate al settore del commercio d'abbigliamento hanno insospettito gli investigatori, che avevano pertanto proceduto ad un controllo più accurato sul carico. Si è aperta questa mattina a Milano, all'arena della libreria Mondadori di Piazza Duomo, la rassegna Un viaggio da fare 2025, curata da Massimiliano Finazzer Flori e promosso dall'assessorato alla cultura della regione, che da oggi a domenica vedrà la partecipazione di numerosi artisti del Friuli Venezia Giulia che hanno lavorato anche in regione. Oggi sono in programma gli appuntamenti con Toni Capuozzo alle 18 e con Federica Manzona alle 19. Siamo al calcio. L'Udinese ferma la capolista Napoli. Allo stadio Maradona è finita ieri sera per 1-1. Al vantaggio di McTominay al 37esimo per i partenopei, ha risposto il gol di Ekkelenkamp per i bianconeri 3 minuti dopo. Risultato più che meritato per la squadra di Rooney Heights, che consolida il 10° posto in classifica. Un pareggio in casa della capolista, giocando con coraggio e soffrendo poco, anzi costringendo il Napoli a soffrire. L'Udinese dal Maradona porta a casa un punto e nuove consapevolezze, primo tra tutti un pressing alto e efficace. Udinese flessibile, che attacca e difende con moduli diversi e asimmetrici contro il classico 4-3-3 di Conte, mossa che paga fin dall'inizio. Friulani vicino al gol con Tovin, salva il friulano di nascita Meret. Il Napoli risponde con McTominay, ma Sava, dopo alcuni svarioni delle scorse settimane, si fa trovare pronto. All'11esimo le due punte dell'Udinese creano Lucca per Tovin, a lato di pochissimo il tiro del francese. Il Napoli pian piano guadagna metri e occasioni, prima Politano, poi ancora con il centrocampista scozzese. Sono le prove generali per il vantaggio azzurro, che arriva al 35esimo. La difesa si perde McTominay su corner, l'ex United è il primo a bucare di testa l'altissima retroguardia udinese. La squadra di Lugnaic però ha coraggio, reazione e su palla persa di Mazzocchi, propiziata da un ottimo pressing, arriva al pari. Al 40esimo e Kellenkamp si inventa un gol da posizione defilata beffando Meret, per l'olandese il primo gol in Serie A. La ripresa è intensa ma senza grandi occasioni. Al 69esimo Solet chiude su uno spento Lukaku, poi l'Udinese prova addirittura a vincerla controllando il pallone nei minuti finali, evitando inutili rischi. 1-1 meritato e decimo posto in classifica consolidato. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la Serie C la Triestina è impegnata nel posticipo serale al Rocco contro il Trento, quinto in classifica con 40 punti. Doppia sconfitta ieri per le regionali del basket. Nella massima serie Trieste ha perso in trasferta contro Brescia per 93-90. In A2 Udine sconfitta a Forlì per 82-76. I biancorossi al settimo posto, i friulani ancora in testa ma raggiunti da Rimini. A Trieste non riesce l'impresa. Sul parquet di Brescia, seconda in classifica, i ragazzi di Christian, senza Colbi Rosso operato alla mano, ne avrà per 3 mesi, giocano una partita punto a punto ma vengono beffati nel finale. Inizio lento dei biancorossi, che soffrono come all'andata in maniera esagerata il talento e la fisicità del centro bresciano Bilan. I padroni di casa scappano a più 10, 29-19, ci vogliono gli straordinari di Reyes e soprattutto di un fantastico Candussi per rientrare in carreggiata e addirittura sorpassare prima di andare di nuovo sotto prima del riposo. Nella ripresa crescono le difese, scendono le percentuali, con Trieste che si aggrappa a Brown e a un bel canestro con fallo di Ruzier. Nel finale Della Valle fa più 4 con una tripla. I biancorossi rincorrono ma sbagliano qualche tiro libero di troppo e non basta la magia ancora una volta di Ruzier, una manciata di secondi dalla fine, per portare tutto a supplementare. L'errore a fil di sirena del nuovo arrivato McDermott definisce il punteggio finale 93-90, 20 punti per Brown. In A2 cade la capolista Udine, immediatamente ripresa da Rimini in classifica. I bianconeri a Forlì disputano un match complessivamente sottotono, anche per la bravura degli avversari, che con i friulani Gaspardo e Pascolo e con l'esperienza dell'eterno Cinciarini dominano il primo tempo, riuscendo nel contempo a ingabbiare Hickey. Eppure, dopo essere scivolata sotto di 8 più volte, la squadra di Vertemati riesce sempre a tornare in partita con Alibegovic e da Ross. All'improvviso però i friulani vengono colti da ansia e nervosismo, complice qualche fischio arbitrale discutibile. Perkovic e Pascolo indirizzano la gara, i canestri finali di Johnson servono però a mantenere almeno la differenza canestri. 82-76, 17 punti per l'ala americana, per la squadra di Vertemati solo il 26% da 3 punti. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella A2 di volley maschile la capolista Tinet Prata, battuta per 3-2 a Siena, i gialloblu hanno conquistato un punto ma sono stati superati in classifica dal Brescia 47-46. L'artistica 81 Trieste conclude all'8° posto la prima gara di Serie A1 della stagione in provincia di Brescia. È stata una prova molto difficile e impegnativa sotto diversi punti di vista, anche per un infortunio, ma la forza del gruppo ha permesso comunque di concludere la competizione e di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti. La squadra è stata composta da Benedetta Gava, Matilde Bianco, Emma Furlan, Romina Spadaro, Maddalena Magrini, Antea Sisio ed Emma Puato, seguite dagli allenatori Diego Peccar, Carolina Peccar, Vania Vescovo e Thea Ugrin. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Viola Romanese e Riccardo Stoic. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.